conti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buongiorno in questo sabato 14 novembre, siamo in diretta dagli studi della radio di Milano, l'intera compagnia dei Conti della Belva è qui che vi saluta, e quindi Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Renato Cifarelli, e collegato in Skype e con Skype è con noi anche Mario Seminerio. Ciao Mario. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, naturalmente, cari ascoltatori, sapete benissimo, immagino, ma se siete sintonizzati su una radio, sapete bene che quello che sta avvenendo da ieri sera, questa tragedia immensa, per il momento 128 vittime, molto feriti, il bilancio e molti feriti, il bilancio ufficiale di questa complessa strategia di attacchi plurimi avvenuti ieri sera a Parigi, obbliga noi tutti a dirvi che anche questa puntata di Conti della Belva in diretta è stravolta rispetto a quello che ci proponevamo di proporvi come argomenti, quindi volevamo parlare, come ovvio, di due questioni, delle nomine sanitarie, la sanità fuori dalla politica della sanità per la faccenda di De Luca, e di un welfare diverso rispetto a quello a cui ci accaniamo a mettere marginali modifiche nella sanità e nella previdenza, ogni legge di stabilità, ma dobbiamo per forza far prevalere, e come è giusto, un'informazione di flusso e tentare di continuare a darvi nuovi particolari e aggiornamenti su questo bilancio tragico, che è comunque la conferma del fatto che gli attacchi che i lupi solitari, piccoli gruppi di terrorismo fanatico islamista possono portare ripetutamente dove li avevano già portati a Parigi, possono avvenire e continuano ad avvenire, perché questa è una grande tragica sfida del nostro tempo. Era di poche ore prima, in realtà del giorno prima, la notizia dell'accoltellamento di un ebreo ortodosso a Milano, e poche ore prima ancora l'arresto in Trentino di una rete di terroristi che facevano riferimento ad arruolatori e a predicatori islamici a cavallo dei confini tra Italia e Norvegia. Quindi questo è il punto tragico della giornata, obbligatoriamente noi dobbiamo seguirlo, e consentite però che noi tutti dei Conti della Belva ricordiamo che non a caso abbiamo uno stacchetto musicale che usiamo fin dall'inizio della nostra trasmissione e oggi più che mai lo vogliamo riusare per dare l'idea del nostro spirito, della solidarietà e del sostegno che abbiamo verso le vittime, verso la Francia, ma verso noi tutti che siamo tutti comunque esposti a queste cose. E quindi, siccome lo abbiamo fatto sentire a voi molte volte per dare l'idea di come noi reagiamo alle cose che non vanno in economia, risentiamo in questo momento, ma con un grande abbraccio a tutti i familiari delle vittime. Eccoci qua, la voce indimenticabile di Mireille Mathieu, ma naturalmente non c'è nessuna enfasi guerresca, ma è l'idea che torna in questo straordinario inno del fatto che bisogna stringersi insieme. E stringersi insieme naturalmente è un punto, ma che cosa i governi fanno di fronte poi alla reiterata strategia di ricolpire a Parigi, in Francia, ricordate Charlie Hebdo, la grande marcia e così via. Allora, chiediamo qual è la prima reazione della Parigi politica e dei parigini stessi a questa tragica serata e nottata di ieri. È collegata con noi, io di questo molto la ringrazio, non sarebbe tenuta perché è a Parigi e scrive per il Messaggero, non certo per Radio 24, per Sole 24 Ore, Francesca Pierantozzi. Buongiorno Francesca, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, le prime reazioni della politica di fronte alla terribile serata di ieri, tutti abbiamo visto le immagini del presidente Hollande evacuato dallo stadio dove c'è la Francia-Germania di calcio e così via, prevale la solidarietà o i primi interrogativi sul fatto che malgrado tutto quello che è avvenuto, tutte le promesse di rafforzamento dei dispositivi e così via, le cose continuano ad andare? Che cosa si percepisce dalla Parigi allora, politica? Allora guarda, finora diciamo la reazione, come dici tu, la prima, e penso che rimane ancora adesso veramente davanti agli occhi, è quella di un presidente Hollande veramente scosso, ed è raro vederlo così perché è un uomo che sta, al minimo che si possa dire, ben diciamo tenere a bada le emozioni, quindi questa è veramente la prima reazione. Generalmente dunque Sarkozy parlerà alle 11 ed ha espresso immediatamente solidarietà ed è d'accordo con lo stato d'emergenza che è stato subito decretato da Hollande, quindi c'è diciamo una solidarietà della destra e della sinistra, si è parzialmente, ma almeno questo guardando Twitter finora, perché non ci sono poi ancora state conferenze stampa, diciamo un pochino segnalato il fronte nazionale, che ci sono stati da parte di alcune esponenti del fronte nazionale subito dei tweet su appunto cosa sta facendo il governo, fuori gli islamici, cambiare le leggi, espulsioni eccetera. Quindi ma la signora Le Pen non ha ancora parlato? No, non ancora, ci sono state esponenti del fronte nazionale ma non di Marine Le Pen. Hanno sospeso la campagna però, hanno sospeso la campagna elettorale e hanno detto fino a nuovo ordine questo non proseguirà. Sono obbligati a farlo perché la campagna elettorale, sono in questo momento lo stato di emergenza, sono vietate le manifestazioni, i meeting, le riunioni, quindi in un certo senso diciamo un po' obbligato perché una campagna elettorale prevede appunto riunioni, assembramenti, per il momento sono vietati, questo è uno stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale, non avveniva dal 61, dalla guerra d'Algeria, quindi sono misure abbastanza precise. Esattamente, sono anche misure, abbiamo visto alle frontiere, abbiamo dato conto di chiusura del Monte Bianco perché si teme che ci siano ancora. Quanto ai terroristi, per quello che si capisce dalle fonti dirette di là, eliminati o ancora potenzialmente in fuga? L'ultimo aggiornamento qual è? L'ultimo aggiornamento è che dunque sono 8 quelli che sono stati uccisi, di cui 6 sono fatti esplodere, 6 kamikaze, mai successo a Parigi che ci fossero dei kamikaze, anche questo diciamo senza precedenti. Senza precedenti è la frase che viene più utilizzata da ieri, dalle 10 di ieri sera. Secondo il procuratore di Parigi, Molin, che è proprio l'uomo delle emergenze, devo dire, da Charlie in poi, non è escluso che ce ne siano ancora in circolazione, da questi, viste le dinamiche degli attentati, diciamo degli attacchi in serie, ma è anche possibile che siano stati compiuti da un solo comando, a parte i 3 kamikaze che si sono fatti esplodere allo Stade de France, naturalmente un solo comando potrebbe, vista la dinamica e gli orari, con la macchina diciamo aver fatto in successione i 6 attacchi a Parigi ed aver poi lanciato l'assalto al Bataclan, ma non sono sicuri, queste almeno sono le ultime le parole del procuratore Molin, e questo giustifica il fatto che il municipio di Parigi e la prefettura hanno invitato ufficialmente i residenti di Parigi a uscire solo se necessario, quindi c'è, devo dire, questa mattina una città, io abito la Bastiglia, relativamente deserta. Perché la gente sta in casa, quindi aderisce a questo appello. Beh, insomma, cioè, ci sono macchine, no, persone chiaro. Per la strada, non esageriamo, non è un coprifuoco, ma insomma è nettamente sabato mattina. No, ringrazio Francesca perché questa ricostruzione della possibilità che sia stato un solo comando a operare i consecutivi attacchi, questo io non l'avevo capito, tra l'altro una dinamica tale da far immaginare che il dispositivo di sicurezza comunque non è stato in grado, se questa è la dinamica dei fatti, di bloccarli dopo che consecutivamente portavano è stato con una macchina, cioè no, io questo vi dico, queste sono le varie ipotesi. Loro sono a bordo di una macchina, si fermano, raffiche di 2 o 3 minuti di Kalashnikov in posti affollatissimi, quindi questo è cambiato radicalmente rispetto a Charlie Hebdo ci sono degli obiettivi tragicamente noti, la libertà di stampa, la comunità ebraica, le forze dell'ordine, questa volta è nel mucchio strage e nel mucchio anche giovani, giovanissimi, perché al Bataclan è un luogo di concerti, un gruppo Metallica californiano dove c'erano ragazzini, ed è terribile questa mattina vedere queste foto su Twitter, appunto quando si parlava della reazione dei parigini c'è anche molta solidarietà, ieri mentre erano in corso questi attacchi in cui non si capiva più niente, hanno aperto le porte dei portoni per far entrare la gente che si trovava per strada nei quartieri eccetera. Quindi dico, è una strategia diversa, questa è la salita di un grado, se era possibile ancora salire di un grado, e cioè colpire il mucchio, colpire il più possibile. A gennaio non è stato così, se vogliamo, anche se poi ci sono state naturalmente le vittime, il tecnico all'inizio, eccetera. Quindi questa è una diversità. Quello del comando è sicuramente un'azione organizzatissima. Le prime informazioni sui terroristi, ancora non si sa per ora l'identità, potrei forse scommettere che si tratta, come al solito, di ragazzi che erano già stati schedati, hanno fatto i soggiorni in Siria, ma non lo sappiamo. Si sa che sono molto giovani, apparentemente maneggiavano le armi e con estrema abilità, quindi addestrati a sparare, non dilettanti, ecco. Va bene, Francesco, io ti ringrazio di questi aggiornamenti che ci hai dato e buona giornata. Sai che i corrispondenti che sono lì di tutte le testate oggi dovranno svolgere un ruolo un po' per tutti, perché siamo all'emergenza, il nostro arriva nel primo pomeriggio, quindi grazie a te per quello che hai dato a tutti i nostri ascoltatori e buon lavoro. Buon lavoro a voi. Abbiamo l'informazione stradale e torniamo subito dopo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta della belva. Eccoci qui, tornato in studio Oscar Giannino, sono con Carlo Alberto Carnevale Maffè, Renato Cifarelli e Mario Seminario collegato. Abbiamo sentito Francesca Pierantozzi, che per il Messaggero, corrispondente da Parigi, che ci ha dato un aggiornamento di una capitale francese con la gente anche in casa, perché c'è stato l'invito della prefettura per l'ipotesi che ci siano ancora non identificati terroristi, non acciuffati, che possano girare, quindi a trattenersi in casa. Francia politica abbastanza solidale ancora, ma in questo stato di particolare restrizione dovuto all'emergenza, che in Francia mancava dal 1961, che quindi sospende anche la campagna elettorale. L'ipotesi forse di un solo comando capace di determinare allo stato 128 morti in luoghi così diversi, la strategia di sparare nel mucchio. Naturalmente quello che vi chiediamo noi oggi è di mandarci messaggi o di telefonarci per dire anche come vi sentite di fronte a questo attacco, se pensate che in Italia rischiamo di meno, nel qual caso perché siete convinti che noi siamo più al riparo. Certo, non stiamo facendo azioni di bombardamento in Siria e in Iraq come invece fa la Francia, però vi sentite davvero così più sicuri o non è una sfida alla quale alzare il livello della risposta tutti uniti e congiuntamente? Non sto parlando di bombardamenti o di guerre vecchie stile tipo Iraq e Afghanistan, però sto parlando di una strategia, cioè quella di fronteggiare Daesh, ISIS, chiamatelo come volete, che sia volta a ottenere obiettivi più efficaci di quelli che fino a questo momento hanno invece regalato un ruolo, e lo sappiamo tutti, a Putin, presente direttamente in Siria, dicendo in realtà l'Occidente non fa abbastanza, e quindi lui è lì con 4-5 mila uomini armati, alcune decine di cacciabombardieri, e colpisce, a dire la verità, più le formazioni musulmane che sono sostenute da Qatar, Arabia Saudita e Turchia contro Assad, di quanto non colpisca gli obiettivi dell'ISIS. Il bilancio degli interventi dei raid aerei russi è più o meno di 5 su 100 dell'ISIS e 95 su 100 degli altri, però in realtà si è impadronito di un'importante carta politica e militare sul campo. Allora chiamateci, e intanto abbiamo appunto già alcune delle vostre telefonate che ci dicono come state vivendo queste ore, che cosa pensate di quello che sta accadendo. Abbiamo per esempio Fulvio da Roma che ci sta chiamando. Fulvio? Buongiorno Giannino. Buongiorno a tutti. E mi spaventa un po' questa sua richiamo alla guerra, perché l'unica guerra che io vedo è una guerra di tipo ideologico che è in campo, e non ce ne stiamo accorgendo. Il valore in gioco è la vita, cioè i terroristi e la diffusione dell'ISIS punta sul non valore di questa vita, millantando una futura vita migliore, e tutto questo appresa solo in chi questa vita la vive male, malissimo, e siano persone che hanno vissuto ai margini qui in Europa e ritornano, chi in Africa vive estremamente ai margini e trova terreno fecondissimo tra una vita, potete immaginare, promettere 1000 mogli o 50 mogli e ricchi pranzi per tutti, tra chi sta morendo di fame è una No, no, io capisco e condivido il suo appello, per così dire, a fare della vita la vera risposta. Naturalmente, ecco, naturalmente qui, però quello che è avvenuto ieri a Parigi è un po' difficile non considerarlo come una strage, un atto di guerra, centinaia di vittime. La strategia per combattere questo è semplicemente dimostrare che la vita è un valore per tutti qui e vale la pena di essere vissuta. Quindi l'integrazione prima di tutto è dare condizioni a tutti quelli che accogliamo. Chi è accolto qui non può dormire per strada, chi è accolto qui non può essere ai margini sfruttato, altrimenti genereremo, come in Francia, dopo 30 anni di seconda generazione di gente che vive, che da musulmano può solo fare lo spazzino, torna e dice: ah sì, ok, meglio che fare come mio padre lo spazzino, farò il martire e così perlomeno vivrò 50 mogli e vivrò ricchi pranzi al lato di Muhammad. Grazie. Secondo me. No, no, ma lo capisco, capisco che è un punto, cioè lei dice: se non siamo capaci di integrare, creiamo le condizioni perché dalle banlieue e dalla miseria la disperazione poi possa accogliere il messaggio dei predicatori e arruolatori dell'islamismo fondamentalista. Paola da Modena, prego Paola. Buongiorno, io sono un'insegnante, sono stata ieri alla conferenza mondiale sul Science for Peace della Fondazione Umberto Veronesi, che trattava proprio i temi del traffico di esseri umani, schiavitù moderna, e ci sono stati 2 premi Nobel per la pace, Srinivadi del 2003 e Kerman del 2011, che hanno trattato questo tema. Sembrava quasi un presagio a quello che poi è successo in serata. Emma Bonino è intervenuta sempre sull'argomento e quello che dona, quello che è stato detto durante la giornata è che il processo di pace non si fa con la guerra. Srinivadi ha dato un messaggio ai nostri ragazzi: buttate i libri e non le bombe sui paesi dove c'è il califfato. L'istruzione è ciò che può sconfiggere questa guerra, questo clima. La pace non si conquista con la guerra. E allora volevo intervenire per suggerire a chi ascolta Radio 24 di andare sul sito di Science for Peace, andare a leggere questo movimento, quanto è importante, che cosa è emerso dalla conferenza di ieri e che cosa può fare ognuno, come diceva Emma Bonino, la società siamo tutti, ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa. E questo messaggio ai giovani, e io lo dico da insegnante, va trasmesso. Grazie infinite a Paola, insegnante, che ci testimonia come ovviamente il compito di una strategia della formazione, dell'educazione dei cittadini è quello appunto anche di passare giornate come quelle in cui meritoriamente la cultura, i fondamenti della cultura dell'integrazione e della pace, quindi Science for Peace, andate a vedere il sito. Apprezzo molto anche il riferimento all'impegno di una persona straordinaria come Emma Bonino per l'integrazione e la cultura. Resta il fatto che la durezza dell'attacco e del bilancio delle vittime portato ieri sera a Parigi, riportato a Parigi, impone delle riflessioni su quanto abbiamo capito da queste durissime lezioni nella nostra strategia di intelligence, nel suo coordinamento, nella graduazione dell'utilizzo degli strumenti di indagine, in una scala che poi arriva anche agli interventi, ohimè, militari sul campo. Ma in questa scala però ovviamente bisogna immaginare che questa è l'ultima reazione. Capisco chi dice non bisogna immaginare subito strumenti di questo tipo, sono io il primo a dirlo perché avremmo dovuto imparare nel bilancio gli interventi da Iraq e Afghanistan, gli errori commessi, no, dalla coalizione internazionale. Detto questo, come vedete la durezza dell'attacco c'è tutta da questo punto di vista. Allora torniamo tra un minuto. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it oppure chiama il numero verde 800 00 2400 e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. della belva. Eccoci qui, tornati in studio, in diretta agli studi di Milano di Radio 24. Ci sono tutti i compagni dei Conti della Belva, quindi Oscar Giannino, Alberto Carnevale Maffè, Renato Cifarelli, collegato con noi Mario Seminerio. E ovviamente puntata di oggi obbligatoriamente dedicata integralmente agli sviluppi di ciò che è avvenuto ieri sera a Parigi, ai vostri commenti, ai vostri interventi e anche alle reazioni italiane. E proprio per questo, comunque, per aggiornare i colleghi della redazione del giornale radio qui di Radio 24, sono sempre pronti, Laura Bettini qui in studio proprio per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno a tutti. Gli ultimi aggiornamenti riguardano tra l'altro quello che avevamo accennato nel corso di GR24, ovvero che ci sono due ragazzi italiani che sono rimasti feriti in questo attentato all'auditorium Bataclan. Sono di Senigallia. Ce l'aveva anticipato poco fa l'ambasciata nell'intervista che aveva fatto Valentina Furlanetto, che abbiamo sentito in GR24. Ora apprendiamo che invece di una sola ragazza sono due. E poi ci sono ovviamente tutte le reazioni che arrivano. L'ultima è arrivata, una tra le ultime, anche quella del presidente palestinese Mahmoud Abbas, che condanna gli attacchi terroristici, e c'è anche quella del grande imam Al-Azhar della moschea del Cairo, che ha condannato questi attentati che ha definito odiosi. Ovviamente adesso è il momento, Oscar, delle certo, condanne. Vorrei anche trovare uno che potesse dire il contrario, no? Esattamente, quindi ovviamente è dovuto. Sul fronte invece delle eventuali reazioni francesi, sappiamo che si è concluso il Consiglio della Difesa a Parigi, che era stato convocato per questa mattina alle 9, si è concluso, dicono i media francesi, attorno alle 10:10, quindi relativamente veloce, però non sappiamo ancora i contenuti, li stiamo cercando le misure, e resta ancora molto da indagare, e non trovo niente, lo confesso ai nostri ascoltatori, non trovo niente sui latitanti, perché non è possibile che queste persone abbiano agito. Sappiamo che 8 sono morti, ma non erano solo 8, quelli erano quelli del Bataclan e quelli dello Stadio di Francia, che sono quelli che si sono uccisi. Anche Francesca Perantozzi, per il Messaggero da Parigi, ci diceva l'ipotesi di un solo comando che abbia potuto fare tutto consecutivamente. Ma tra l'altro si cerca a livelli molto più alti di quelli soliti, cioè qui non sono il cane sciolto, no? Come li chiamano, i lupi solitari? No, siamo a un livello decisamente più alto. Non lo so se sapendo qualcosa o così per coincidenze fortuite, ieri il premier, direi, aveva rilasciato questa intervista in cui aveva detto: possiamo essere vittime di attacchi terroristici in qualsiasi momento. Ebbè, 9 ore dopo sono stati vittime di un attentato naturalmente terroristico. Bisogna vedere se poi è una dichiarazione rituale o se invece in ottima delle segnalazioni dell'intelligence. Sappiamo che da ieri c'erano state ripristinati tutti i controlli di Schengen. Esattamente. In vista di COP21, ma forse in vista anche di qualcos'altro. Esattamente. Comunque, grazie Laura, naturalmente noi siamo in diretta, quindi vi daremo tutti i nuovi sviluppi. Uno degli aspetti di quello che è avvenuto ieri sera, stanotte, è stata l'utilizzo, la reazione, la sovrareazione, anche la valvola di sfogo sociale e di avviso e di informazione sociale, naturalmente, dei social network, caro Carlo Alberto, perché è diventato uno degli strumenti attraverso cui in tempo reale i fenomeni si manifestano, rimbalzano prima ancora di essere apprezzabili, perché ovvio che il giornalismo viene dopo, e contemporaneamente esprimono alcuni aspetti positivi, altri un po' meno, naturalmente, del nostro vivere organizzato e dell'utilizzo delle piattaforme di informative. Ma io tra l'altro sono stato testimone di questa cosa, perché io giovedì ero a Parigi, sì, neanche a farlo apposta, con mia figlia, e ho postato sui social network delle foto di me a Parigi con mia figlia, come ormai facciamo tutti quando siamo in giro, e ieri sera quando è successa questa cosa, ovviamente tutti pensavano che tu fossi lì, quindi hai dovuto fronteggiare tutti i miei amici pensavano che io fossi a Parigi, e molta gente ha cominciato a chiedermi dove ero, se stavo bene, ho ricevuto sms, comunque noi abbiamo, social network. Caro Alberto, abbiamo chiamato, e la ringraziamo di questo, è collegata con noi Laura Bononcini, che è responsabile delle relazioni estere di Facebook Italia, proprio per fare un ragionamento su questo, Carlo. Sì, Laura, come me, ha visto in questa giornata terribile un uso sorprendente e innovativo dei social network. Sicuramente i commenti, ma per esempio Facebook, che è la piattaforma che Laura rappresenta, attivato una funzione molto interessante e molto innovativa ieri, si chiama Security Check, che consente sostanzialmente a tutti i connessi a una utente Facebook di sapere che la persona è al sicuro, quindi non intasando le linee verdi della sicurezza e dando quindi un messaggio importante, un messaggio di presenza e di solidarietà. Volevo chiedere a Laura, appunto, è un empowerment di autosicurezza civile dal basso. Quindi... questo è il principio, così come sempre su Facebook i post delle persone dentro al locale sono servite alla sicurezza per decidere un intervento tempestivo, perché era in corso un'esecuzione. Allora, senza entrare negli aspetti, se volete, poi tecnico-militari, ma io volevo un commento da Laura. Laura, su come queste funzioni social stanno in realtà aiutando tutti noi a elaborare questo grande lutto e a parteciparvi fin dall'inizio, invece che riceverne soltanto informazioni dalla stampa, partecipare, viverlo e commentarlo. Penso che abbiamo notato tutti il grande scoppio di comunicazioni sui social proprio ieri sera. Laura. Grazie per l'invito. Volevo prima di tutto dire che sì, anch'io come tutti noi siamo particolarmente scioccati da quello che è successo, e proprio in quei momenti, come diceva Carlo Alberto, la comunicazione è veramente fondamentale. Io ho fatto la scuola francese, ho la maggior parte dei miei amici a Parigi, la prima cosa che ho fatto ieri è cominciare appunto come te a mandare messaggi, a guardare i social per capire cosa stava succedendo, se davano notizie. E quindi è da quel punto di vista che abbiamo deciso di attivare questa funzione, che consente alla persona che si trova a Parigi in quel momento, o che ha detto che Parigi è la sua città, insomma, dalla quale proviene, di comunicare attraverso questo strumento che è sicura. Consente anche, tra l'altro, ai suoi amici di dire che è sicura in casi in cui, ad esempio, in alcuni casi si trovano in ospedale e quindi non hanno la possibilità di dirlo, ma sono comunque vivi, e soprattutto consente a noi, amici, familiari, eccetera, di ricevere una notifica e di sapere che queste persone sono al sicuro. Quindi è verissimo quello che diceva Carlo Alberto, è stato utilizzato Facebook, come tutti i social, per informare, per aggiornare, purtroppo anche per sfogarsi su queste tematiche, ma un utilizzo sempre più importante che abbiamo sperimentato tutti in diretta e che noi abbiamo voluto attivare da un punto di vista proprio formale è l'utilizzo di questi strumenti anche per aggiornare le persone sul fatto che si è al sicuro. Laura, io credo poi che ci siano anche, vista il rilievo, la complessità, gli effetti, la significatività di questi attacchi terroristici, ci siano anche poi delle lesson learned successivamente per grandi piattaforme come le vostre, di riflessione su come alzare il livello dell'approntamento di questo tipo di reazioni e di potenziamenti per questi fini proprio di piattaforme quando si verificano emergenze di questo tipo. E questo riguarda naturalmente voi come Facebook. Poi c'è un altro aspetto molto delicato, ovviamente, che riguarda anche in quel caso l'approntamento, come devo dire, di canali diretti con le unità e i servizi di intelligence dei diversi paesi, perché naturalmente in quelle ore, in quei minuti possono passare anche dei messaggi, problema, mi rendo conto, molto delicato, che possono essere utilissimi in tempo reale al coordinamento degli interventi e delle indagini. Però credo che le lezioni apprese di volta in volta su fenomeni come questi, che a quel punto vedono milioni di persone in uno dei più grandi centri abitati dell'Occidente colpiti, terrorizzati, ma che parlano e si esprimono, sono poi i grandi balzi in avanti per capire meglio come si utilizzano queste cose. Esatto, secondo me questo, posso dire, ci stanno facendo un regalo questi attacchi terroristici, diciamo, che ci stanno, invece da questo punto di vista, perché ci costringono ad avere un livello di solidarietà, di coordinamento diverso, ci costringono a impadronirci di livelli di anche istituzionali, se posso dire, che i social network stanno svolgendo una funzione istituzionale. Ricordo che consentono la geolocalizzazione, consentono la comunicazione orizzontale, che è molto importante per trasmettere sicurezza alle famiglie. Per me stanno costruendo una nuova città, ecco, così come ovviamente loro, i nostri nemici, se ne approfittano e li usano. Però volevo ancora chiedere a Laura un commento invece sulla parte più contenutistica. Che cosa sta succedendo dal punto di vista degli sfoghi, mi dicevi, del tipo di commenti? Facebook vede transitare commenti da tutto il mondo. Avete osservato qualche volume particolare, qualche trend particolare ieri sera? non abbiamo ancora i dati a disposizione, nel senso che è successo tutto nella notte, quindi non siamo in grado adesso di dare questo tipo di indicazione, però è chiaro che le persone sostengono e poi possono anche criticare da questo punto di vista. Innanzitutto volevo ribadire che abbiamo delle regole molto stringenti contro tutto quello che è contenuti legati al terrorismo, ma anche provenienti da organizzazioni certo. terroristiche, quindi anche se sono un terrorista e racconto che quello che ho fatto ieri che è completamente innocente, naturalmente non sarò autorizzato ad avere una presenza sulla piattaforma, ancor meno l'apologia al terrorismo. In generale abbiamo degli strumenti che funzionano molto bene e che consentono a chiunque di segnalare contenuti o legati al terrorismo naturalmente, ma anche di hate speech, e a noi di rimuovere in modo molto veloce questo tipo di invece stanno funzionando bene gli appelli. Per esempio ieri sera è circolato un hashtag che si chiama Porte Ouverte, che sì. serviva per accogliere persone. Ancora un appello per esempio sul tema della donazione di alcuni tipi di sangue. Anche qui invece i commenti di questa auto-organizzazione e di solidarietà immediata, cosa ci puoi dire, Laura? Quelle sono le bellissime cose che nascono e si sviluppano attraverso i social. Un'altra cosa che ha cominciato a svilupparsi automaticamente, che abbiamo poi noi appunto lanciato, è la possibilità di cambiare l'immagine del profilo adesso con la bandiera francese. Un altro modo per le persone di esprimere, in questo caso in modo generale, la solidarietà, ma tutti questi hashtag che invece sono nati e che hanno consentito alle persone realmente di aiutarsi, di organizzarsi attraverso i social, sono queste belle cose che nascono appunto naturalmente attraverso strumenti di questo tipo. Auto-organizzazione di una società che in quel momento tira fuori, e questo è l'appello che noi lanciamo a tutti ovviamente, non è un appello melassoso e mieloso, bisogna ritrovare certo. i motivi della esatto. cooperazione dal basso usando civile, usando i meccanismi che la tecnologia ci mette a disposizione, perché è ovvio che le istituzioni, lo Stato, la sicurezza sono funzioni naturalmente che vengono da un blocco di organizzativo più elevato, però il problema è che come si forma in tempo reale la reazione attraverso i social, quello è il termometro certo. poi della coesione sociale magari vera, anche pensare 5 minuti a cosa stiamo per ecco, scrivere no, prima di scrivere certe no, devo dire che a volte penso che tu dici 5 minuti, io mi prendo, faccio l'autocritico giornalista, se vedo anche quel titolo sui giornali lì ci hanno avuto più di 5 minuti per pensarci, eppure ci vanno giù col cannone. Allora francamente la mia idea è che prima di usare il cannone, se fai il titolo di un giornale, però questa è la mia opinione. Quale, posso chiederti qual è la tua, Laura, su questo? La mia opinione è come la tua. Beh, forse meglio pensarci un po'. Pensarci un po', ma non per FIFA, perché bisogna anche razionalizzare le cose, perché ci vogliono anche delle ore per capire cosa è successo. Qui stiamo parlando di eventi. Io penso che nel rispetto dell'opinione di tutti, vedo dai messaggi che ci sono opinioni di tutti i tipi. Però il nostro compito in queste ore delicatissime, se ne abbiamo ancora uno, è proprio in queste ore quello di essere freddi, razionali, di dare i fatti. Per esempio, ti faccio un esempio che stamattina girava sui giornali francesi ed era interessante. Appena si è saputo di quello che stava succedendo a Parigi, si è cominciato a parlare di un incendio a Calais, nel campo dei rifugiati. Un incendio doloso che i rifugiati siriani, eccetera, eccetera, aspettano di passare dall'altra parte della Manica, avrebbero appiccato per solidarietà a quello che succedeva a Parigi. Le autorità francesi sono immediatamente intervenute per dire no, c'è stato un cortocircuito, c'è stata una cosa minuscola, calme, nessun incendio gigantesco calme, a Calais, calme. Piccola cosa immediatamente domata. Si parlava contemporaneamente di un allarme a Londra, scattato negli stessi identici minuti, con gente accoltellata per strada a Londra, situazioni drammatiche. Per quello che bisogna, proprio come mestiere, dobbiamo anche cercare di evitare certi allarmismi, verificare. E dall'altra parte però il problema dei social è che le voci poi possono anche correre incontrollate. Ah no, non c'è dubbio, e a maggior ragione, io siccome questo lo sappiamo che appartiene ai social, in queste circostanze il dovere del giornalista secondo me è tenere le proprie eventuali opinioni più in tasca, i fatti, e soprattutto sapere che noi abbiamo il compito di evitare l'escalation della cooperazione e moltiplicazione di voci infondate che a quel punto autorizzano le reazioni ancora più dure, ancora più estreme, eccetera, eccetera. Signori, la coesione sociale, che è una condizione per delle risposte al terrorismo fredde, razionali, misurate e a quel punto efficaci, si costruisce anche ricordandoci in queste ore, siccome i giornalisti di solito sono molto fieri di quello che fanno, credo di essere sottovalutati, che noi dobbiamo per primi vigilare contro noi stessi in queste ore. Solo così svolgiamo bene il nostro residuo ancora mestiere. Allora, un minuto di interruzione e poi torniamo con le vostre telefonate e nuove opinioni. Chiediamo anche a Mario, che è collegato, quali sono le sue impressioni. Mettiamoci anche un primo pizzico che riguarda i nostri temi tradizionali dell'economia, perché non ci dimentichiamo che fenomeni come questi, rispetto alla frenata che era già in corso dell'economia mondiale eccetera eccetera, di cui vi avremo parlato in trasmissione, qualche cosa comunque producono, non solo sui mercati nel breve, ma producono sui fenomeni di fondo che già vedevano un po' troppa sabbia nei meccanismi della crescita, al di là dell'enfasi italiana. Tra un minuto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Fratelli d'Italia, l'Italia alle vesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornate in studio, 10.51, primi 44 secondi, le due ore dei conti della belva, ma come oggi è ovvio e inevitabile, la programmazione Radio 24 è dedicata agli sviluppi, agli aggiornamenti, alle informazioni su tutto ciò ancora che non è chiaro, moltissime cose della strage dovuta ai primi attacchi avvenuti ieri sera a Parigi. E adesso abbiamo alcune vostre telefonate, dopodiché al ritorno, dopo il GR con gli ultimi aggiornamenti, noi avremo Thomas Manfredi che lavora per l'OCSE a Parigi, con Mario Seminario ci porremo anche interrogativi non solo con Thomas che ci dice come l'ha vissuta lui da Parigi, ma anche su come si può stimare che un attacco che alza il livello di questo tipo possa avere poi delle conseguenze anche sull'economia, alla luce di quello che abbiamo visto nelle storie storiche inglobate, tutte le volte che c'è stato un innalzamento della sfida con tante vittime e quindi dei fenomeni politici che sono prevedibili, che si scatenano in successione. Allora, tra le vostre telefonate iniziamo con quella di Davide che ci parla da Como. Davide, prego. Sì, buongiorno a tutti. Ovviamente ore di angoscia, anche perché, come voi avete sottolineato, ho seguito soprattutto su Twitter, ecco, il dramma. Paola Peduzzi poi sul Foglio del Foglio ha ricordato anche come i tassisti abbiano azzerato i tassametri, i giornali abbiano liberato completamente le edizioni a pagamento. Ecco, volevo aggiungere anche questo oltre a tutta l'informazione che c'è stata. Nella razionalità che professore lei stava dicendo, io volevo aggiungere oggi un tassello, cioè sul restringimento della sicurezza, che a questo punto secondo me non vale più soltanto per Hollande e la Francia, cioè il quello che è stato fatto negli Stati Uniti, diciamo dopo le Torri Gemelle, che è stato un no, po' Davide, il problema è diamo quest'altra cornice, cioè noi siamo arrivati in questi ultimi mesi dopo la svolta umanitaria verso la Siria annunciata dalla Merkel, in poche settimane cambia il quadro, perché la stima oramai è un milione di profughi che arrivano per la sola Germania quest'anno e i transiti in tutta Centro Europa fanno in poche settimane sembrare la svolta umanitaria, la fanno tornare indietro, e abbiamo assistito nelle settimane alle nostre spalle ad annunci unilaterali di molti paesi europei che sospendevano Schengen. Ci siamo abituati a considerare questa come una cosa che finiva quasi nelle brevi di cronache, tant'è che quando l'annuncio l'ha dato la Francia pochi giorni fa di 30 giorni di sospensione, i giornali italiani a malapena l'hanno riportato. La cosa incredibile è che noi abbiamo ripreso a sospendere Schengen per gli immigrati, per i profughi, e adesso, come dice Davide da Como, il problema diventa no, noi forse dovremmo sospendere Schengen per questioni di sicurezza sui transiti. E tenete conto che, a mio giudizio, l'ho scritto in questi giorni sui giornali, l'Europa ha dimostrato nella svolta umanitaria tedesca e poi nel suo rebound, nella sua marcia indietro, di non essere proprio in grado politicamente di poter gestire ancora questi fenomeni, perché pensate al vertice di Malta di due sere fa, con il fondo comune fiduciario di 1.8 miliardi per intervenire in Africa, temo che non sia per l'ennesima volta la risposta strutturale a questo. Temo che la durezza dell'attacco ieri sera a Parigi ci restituisca l'obbligo di immaginare strumenti europei e comuni diversi. Francesco da Milano, come la pensa Francesco? Buongiorno, sì. Grazie della possibilità di intervenire. Sì. Facevo una considerazione, io sono uno, ma sono in ottima compagnia, di quelli che sostengono che siamo di fronte all'ennesima invasione islamica dell'Europa. e mi domandavo come mai Italia e Germania sono gli unici due paesi che sono, toccando tutto il ferro possibile, in questo momento fino ad oggi immuni dal terrorismo. Allora mi facevo questa domanda e mi davo questa risposta: l'Italia forse perché è il ponte di transito con le porte aperte all'immigrazione, e la Germania, la Merkel l'ha recentemente testimoniato, come paese che accoglie tutti, opponendosi persino a Ungheria e Repubblica Ceca. Ma Francesco, registriamo la tua opinione. Ti ricordo solo, il totale degli arrivi in Italia a quest'anno è inferiore a quello dell'anno scorso. Numeri fatti, quindi stiamo parlando di 30.000 in meno dell'anno scorso. E in Germania non mi pare che accolgano tutti, basta vedere le proteste di piazza, CDU e CSU che ormai si ribellano alla Merkel. Forse è un pochino più complesso che questo allineare condizioni per dire ce li stiamo comprando perché abbiamo le porte aperte. Questa è la mia opinione, ci sentiamo dopo. Il segnale orario vi è offerto da Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Della belva. Eccoci qua, tornate in diretta alle 11:10, primi 10 secondi, agli studi Milano della Radio 24, la compagnia dei compagni Conti la Belva, Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnovale Maffè, Renato Cifarelli, e in studio con noi anche Laura Bettini, che la ringrazio perché è le nostre orecchie e la nostra bocca, quindi i nostri cinque sensi sempre accesi anche durante la diretta delle trasmissioni per gli aggiornamenti, naturalmente trasmissione dedicata agli effetti, le interpretazioni, tutto ciò che sta qua non sappiamo e sta diventando noto nel tempo di questi tragici attacchi concentrici a Parigi. Ieri ancora 128 morti bilancio, due studentesse italiane di cui vi daremo aggiornamenti nel corso della giornata. Nel frattempo lo avete sentito, il presidente Hollande, Laura, cos'è che ha detto il presidente Hollande? Insomma, ha detto, insomma, dichiarazioni pesanti. Il presidente Hollande ha chiaramente attribuito la responsabilità, e definitivamente almeno da un punto di vista del Consiglio di Sicurezza francese, al Daesh, quindi insomma come lo che noi diciamo l'ISIS, ha detto che è chiaramente un attacco, un'azione di guerra, l'ha definita, e ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale e poi una riunione del congresso a Versailles lunedì, quindi ovviamente ha detto anche saremo spietati. Quando saremo, si parla spietati di guerra, significa sempre che c'è una risposta militare che arriva, perché un capo di Stato non sì, usa esatto, ecco, precisamente non si parla di guerra senza pensare a una risposta di quindi, pari livello, no? Quindi vedremo, ma insomma la risposta della Francia, tenete conto che Hollande ha un problema politico anche nel proprio paese, la destra non ha ancora parlato, però è noto che cosa pensa, eccetera eccetera, però c'è una porta aerea, la porta di Charles de Gaulle, lo vedremo poi dopo le 11:30, dopo le 11:45 faremo un collegamento con il direttore di Rivista Italiana Difesa per vedere gli aspetti militari geostrategici che possono essere implicati in questo tipo di reazioni, però il presidente francese parla una lingua che è di questo tipo. Allora, noi iniziamo a fare un po' il nostro mestiere per un po' di tempo, che è quello di parlare anche degli effetti dell'economia che abbiamo già conosciuto e apprezzato nella serie storica alle nostre spalle dopo attacchi terroristici di queste proporzioni, nel quadro però di un quadro dell'economia nazionale, internazionale, che era in fortissimo rallentamento, e quindi questo aspetto è una difficoltà aggiuntiva nel nostro quadro. Allora abbiamo collegato con noi Thomas Manfredi che lavora proprio all'Ocse a Parigi. Buongiorno e grazie di essere con noi, Thomas. Ci sei? Sì, c'è. C'è? C'era. C'era ma è caduta la linea, e allora nel frattempo noi richiamiamo Thomas Manfredi perché è caduta la linea, e allora io intanto però chiedo a Mario Seminerio una sua valutazione. Ricordiamo che cosa era già successo in settimana sul rallentamento della crescita mondiale e anche sulla prima stima del terzo trimestre del PIL italiano da parte dell'Istat. Mario? La stima del PIL italiano del terzo trimestre ha mostrato un rallentamento di 0,1 punto percentuale, diciamo nulla di trascendentale, diciamo ha frenato anche la Germania, La Francia a questo giro ha fatto lievemente meglio. Nel complesso credo che l'Eurozona abbia avuto questo trimestre, lo scorso trimestre, una flessione dello 0,1%. Che dire, c'è una caratteristica che accomuna il dato francese, italiano e tedesco, sì, cioè il contributo negativo del commercio estero, nel senso che la variazione delle importazioni supera la variazione delle esportazioni. Cioè la domanda estera dà un contributo negativo alla crescita, esatto, in questa fase. Esatto, dopo diciamo anni in cui soprattutto noi italiani è stato detto che dovevamo attrezzarci per esportare su Marte, che avremmo avuto davanti a noi delle praterie eccetera eccetera, negli ultimi mesi, di questo c'è assoluta consapevolezza anche nel governo, si è capito che questo canale sta perdendo colpi, questo motore sta tossendo vistosamente e quindi si punta sulla domanda interna. Però c'è una cosa veramente che a me ha colpito, no? Che il terzo trimestre accomuna Italia, Francia e Germania, e cioè un andamento mediamente positivo della spesa dei consumatori, un andamento negativo del commercio estero. Quindi se da un lato la disinflazione può essere stata utile per diciamo indurre un miglioramento della spesa dei consumatori e in alcuni casi, ad esempio nel caso italiano, la stabilizzazione e lieve miglioramento del mercato del lavoro può avere influito in alcune decisioni di spesa e di acquisto che hanno a loro volta rimesso in moto anche gli investimenti. Non dimentichiamo comunque che l'economia italiana è autocentrica, o per meglio dire fiat-centrica, come dimostrano i dati di produzione industriale. C'è il fatto che però le incertezze rimangono tutte, quindi è un contesto molto difficile. Standard & Poor's ieri non ha deciso di migliorare il rating sull'Italia, ha sospeso per l'ennesima volta il giudizio, perché diciamo valutando tra l'altro criticamente il fatto che non si riesce a giungere ad una razionalizzazione della spesa, ammesso che la spesa si possa razionalizzare in questo paese, e quindi siamo in una situazione di animazione sospesa, malgrado diciamo il solito trionfalismo di maniera che arriva dalle parti di Palazzo Chigi. Io mi scuso di dover commentare cose di questo tipo oggi, come ho twittato prima, io in questo momento provo un senso di enorme inadeguatezza per le parole che pronuncio, per molte di quelle che ascolto, per la situazione in generale, e quindi altro non riterrei di aggiungere. Dico solo, sicuramente Oscar, come dicevi tu, c'è un problema anche di fiducia, nel senso che un attacco bestiale e inaudito di questo tipo chiaramente si abbatterà in maniera drammatica anche sulla fiducia, sul sentiment eccetera, se poi dovessero esserci diciamo una fase di tensione del tipo adesso a chi tocca, è chiaro che insomma no, la cosa non depone in maniera particolarmente favorevole. Però queste sono, ripeto, solo considerazioni molto banali che ognuno di noi può fare diciamo senza particolare expertise, ecco. Grazie Mario. Allora Tommaso Manfredi, che è tornato al collegamento? Ci sei? Buongiorno. Sì, ci sono. Buongiorno a voi. Ciao Thomas. Tu ieri sera dove eri? Ieri sera ero vicino a casa mia, ero in una brasserie, stavo mangiando, quindi ero completamente ignaro della cosa. Una volta tornato a casa ho visto mille messaggi fra Facebook e Twitter che mi dicevano stai bene, e mi sono reso conto della situazione un pochettino in ritardo rispetto alla realtà, però insomma. Comunque eri in una parte di Parigi che non ti ha consentito di capire in tempo reale. No, esatto, esattamente. Non ero nel centro di Parigi, non ero una zona interessata, quindi fortunatamente almeno per me personalmente non ho avuto grandi problemi, però effettivamente la città vive delle ore un pochettino surreali, voglio dire. La gente parigina è molto, come sapete, non è forse tra le persone, tra la gente più simpatica che si può trovare sul globo, però effettivamente sta reagendo in maniera molto dignitosa a questa che è veramente un atto di guerra. E il presidente Hollande, come avete ben ricordato prima, ha fatto questo discorso abbastanza duro nella sua risposta, quindi vedremo un pochettino la situazione come si evolverà. Senti, ma Thomas, noi in realtà cosa abbiamo imparato se guardiamo retrospettivamente dal 2001 in avanti, insomma, degli effetti sulle tendenze economiche del ciclo internazionale quando avvengono cose di questo genere? Perché ricordiamo l'Ocse proprio questa settimana aveva detto. È una buona domanda, una buonissima domanda. A caldo è difficile dare valutazioni un pochettino precise su questa questione. Effettivamente credo che conti nel sentiment, come ricordava benissimo Mario. Però Mario, assolutamente. Vedremo. Certamente per la Francia, che ricordiamo sta crescendo leggermente più dell'Italia, però il tasso di disoccupazione sta scendendo in maniera molto blanda, quindi sì, anche la situazione sociale è quella che è, voglio dire. No, perché l'esempio che facevamo prima, siccome voglio dire, uno degli aspetti più preoccupanti è l'andamento del commercio mondiale, stimato l'Ocse, certo, questa settimana, esatto, solo più 2%. Esatto. Quando avvengono cose di questo genere, una cosa che sappiamo, che abbiamo imparato, che avviene puntualmente, certo, dopo i grandi attentati, per esempio, è che nella catena logistica del commercio mondiale si innalza verticalmente il tipo di controlli sui TEUS, cioè quei contenitori che vanno sulle navi su cui passa la stragrande percentuale del commercio mondiale. Questo significa più tempi, più rallentamenti, ulteriori problemi, ulteriore aumento dei costi, tenete conto che non i noli, solo quello, anche per la circolazione delle persone, credo, esatto, no, il tema vero è un aumento dei costi di transazione, sia della circolazione dei beni che della circolazione delle persone. Questo discorso su Schengen, questo discorso della paura, anche è purtroppo una cosa certa, la ottiene, quello di aumentare i costi di transazione, rallentare le catene logistiche e quindi anche a parità di volontà d'acquisto, sì, certo, esatto, c'è nel breve un rallentamento. In questo senso c'è un po' da preoccuparsi, siamo tutti qui a discutere di pochi punti decisivi, addirittura sotto l'intervallo di confidenza delle stime statistiche, oggettivamente non è facile su questo poter fare delle previsioni. Tenete conto che, ripeto, quello che è avvenuto in due settimane per l'ennesima volta, è la quarta volta che avviene dal 2005 in Egitto, che l'Egitto tenta di ritirarsi su e boom, capita un evento terroristico o comunque vissuto e presentato sui mercati internazionali del turismo come terroristico, cioè la caduta dell'aereo, per il quale l'economia dell'Egitto boom, ripiomba giù. È successo l'anno scorso con tutto il Nord Africa, è stato bloccato completamente. Uno Tunisia, dei rimbalzi della stagione italiana turistica è stata anche dovuta, io lavoro con tanti tour operator, al fatto che di fatto sono bloccati tutti i cicli del Nord Africa. Volevo però chiedere un tema: come reagisce la Francia laica a questo aspetto? Aspetta, questa, hai fatto la domanda, Thomas ci dà la risposta dopo un minuto perché abbiamo il traffico. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua, tornati in diretta, 11:21 primi 50 secondi del studio della 24 di Milano, audizione speciale, come è ovvio oggi tutto è speciale per il giornalismo, con lo scopo di informarvi, continuare a informarvi e oltre che a darvi i primi commenti, le prime opinioni, ma soprattutto gli sviluppi sui fatti concreti dopo gli attentati plurimi e contemporanei a Parigi ieri sera. 127 morti, moltissimi feriti, anzi ricordiamo 128, perdonatemi. Allora abbiamo collegato con noi appunto Thomas Manfredi, che lavora all'Ocse a Parigi, e eravamo arrivati a un punto, Carlo. Sì, un punto delicato che lo voglio toccare proprio perché c'è Thomas e so che sei attento. Si è diviso il mondo ieri sera tra chi stava interpretando il fenomeno, diciamo, in maniera laica, quindi con un attacco, uno scenario di guerra, uno scenario tattico, di un'azione militare, e chi di nuovo l'ha buttata sullo scontro di civiltà, lo scontro di religioni. Ieri sera è circolato sui social un hashtag Pray for Paris, cioè preghiamo per Parigi. E con Thomas abbiamo reagito dicendo no, work for Paris, cioè lavoriamo per Parigi. Volevo chiedere a Thomas come sta interpretando per esempio il commento di Hollande, che mi sembra ancora legato al tema proprio della Francia laica, che reagisce non accusando l'ideologia, ma prendendo questo sulla sfida, sul terreno militare, sul terreno organizzativo. Cosa ci dici? Mi piace molto questo aspetto laico. Anche questo... Assolutamente, guarda, cioè io non so cosa dirci. Personalmente tu sei una persona molto laica, quindi voglio dire, questo tema mi tocca personalmente. Non saprei come risponderti, perché io conosco delle Parigi profondamente laiche, dove la religione è assolutamente, diciamo, vista come... Non lo so, lo sapete come pensano i francesi, voglio dire. Per loro hanno una religione che è quella della Repubblica, quindi cercano, sin dal momento in cui entri nelle scuole elementari, cercano di inculcarti questa cosa, che i valori universali in cui i francesi credono sono l'unica religione che è da seguire. Però effettivamente non bisogna neanche nascondere la testa sotto la sabbia, ecco, e dire che esistono delle Parigi non laiche. Esistono delle Parigi parigine che non sono assolutamente non laiche. Io assolutamente so che la maggior parte dei parigini intramuros non conosce nemmeno la situazione di queste baglie, onestamente. Io sono andato personalmente diverse volte perché mi piace girare e guardare, e credo che ci sono posti. Thomas, ti faccio riflettere che tu stesso stai dicendo ci sono andato diverse volte, come se si trattasse di spingersi su una specie X sunt leones, come c'erano nelle vecchie carte geografiche. Assolutamente, non bisogna nascondere la testa sotto la No. Cioè, la situazione di questi quartieri. Bravo. È attenzione. Quello che ci stai restituendo, cioè tutti voi che lavorate nelle istituzioni internazionali a Parigi, e tantissimi amici che abbiamo noi della comunità finanziaria, dei banchieri, senza andare a Parigi, a Milano, quanta gente va in certi quartieri? Sì, però attento, posso dirti, credo di conoscere un pochino, bene, abbastanza, non nello stesso modo, cioè, per esempio a Londra questa cosa non c'è, perché a Londra non è che a Camden o la gente non ci mette piedi mai, a Parigi è ancora molto così, c'è poco da fare. È una società abbastanza bloccata da un punto di vista anche della mobilità intergenerazionale, onestamente. Per esempio, ragazzi, i posti che sono a tutti gli effetti inglobati nella grandissima area metropolitana di parigina, ma che stanno un po' fuori, classicamente monopolio della rappresentanza come municipi di grandi capi del centrodestra, quello repubblicano, no? Dell'UMP francese, sono delle enclave chiuse che non ci mettono più di una volta nella vita nei posti. Assolutamente, a me spiace essere spietato, però è così. È così. La situazione è questa. Io vi racconto la situazione sociale della città, che è la città di mio figlio, in cui mio figlio è nato. Quindi mio figlio è parigino. E effettivamente è così. Il problema della Francia è attualmente quello di essere una società completamente verticistica, e purtroppo in cui l'integrazione ha funzionato molto male, molto perché male. La seconda, la terza generazione di immigrati hanno meno opportunità di lavoro dei padri o dei nonni, malgrado la religione inclusiva della Repubblica. Allora sì, questo esatto, è un bilancio, purtroppo per noi laici è un bilancio amaro da trarre, cioè il fatto che la condizione di emergenza proclamata dalle autorità di sicurezza francesi oggi abbia come unico precedente vicino quella per l'Algeria del 1961, ci dà l'alfa e l'omega di questa storia. La guerra di Algeria, colonialismo francese, con un nazionalismo laico algerino, abbeverato nella cultura europea, marxista, di sinistra e nazionalista, che finisce la sua parabola, fine della parabola del grande sogno nasserismo sadatiano, e torna a un fondamentalismo, rispetto alla quale il bilancio della nostra integrazione laica, anche in Francia, è purtroppo amaramente negativo. Adesso bisogna avere il coraggio di ammetterlo, poi la si può pensare di destra, di sinistra, come la volete, ma è un bilancio storico, caro Alberto, è così. È la religione della Repubblica, la religione laica dell'integrazione, anche quella europea, deve interrogarsi, perché il potere di aggregazione delle vecchie religioni, purtroppo, lo dico cinicamente, purtroppo, perché invece è un mondo che erige le barriere e che chiama a scontri francamente difficili, ma voglio solo dirti questo, perché c'è qualcuno che chiede sospendiamo il giubileo, e quindi ancora una volta una richiesta laica a qualcuno che ha fatto una festa religiosa. Dal mio punto è inammissibile che parta una richiesta laica per dire non fate una festa religiosa, però il tema del non nascondiamoci che qualche rischietto lì parlato di sicurezza italiana ci sarà, bisognerà ovviamente affrontarlo. Però io vorrei capire cosa ne pensano gli italiani. È il caso di sospendere il giubileo e quindi di dire ci inginocchiamo sia laicamente che religiosamente a questa minaccia? Io dico mai e poi mai nella vita. No, certo, io spero solo che saremo all'altezza, perché vedo che prepariamoci allora, Oscar. Il problema non è rinunciare, è prepararsi. Ho capito. Il governo ha appena stanziato i 200 milioni, quindi come vedi la spesa pubblica. Il giubileo dopodomani, cioè figurati, appena stanziate. Non lo so, io sono un po' preoccupato. Per esempio, la domanda di servizi, la butto lì, finché la valutazione del PD, del governo, adesso non voglio dirazzare, dico solo 5 secondi a proposito della sicurezza, la loro valutazione è che il sindaco Marino doveva restare in piedi. Abbiamo avuto i rapporti dei viceprefetti sulle commissioni perduranti, questa era la domanda su cui facevano il rapporto, ci sono ancora nella amministrazione del Campidoglio, secretati dal prefetto Gabrielli. Poi Marino è stato mandato via e adesso abbiamo lo stesso prefetto che invece ieri fa un rapporto che ci dice che le commissioni ci sono ancora, che l'amministrazione è ancora da bonificare, c'è un buco aggiuntivo di 230 milioni. E lo stesso prefetto, io da un prefetto dello Stato mi aspetto che se questa è la certificazione me la dicesse mesi prima, lui l'ha secretata mesi fa e adesso la dice. E guardate che l'apparato poi di sicurezza sta nelle sue mani. Io ho qualche perplessità da giornalista, non politica, su come funzionano le cose in Italia. Quando vedo sti tempi dico, boh, ma è troppo, c'entra troppo la valutazione politica, capite? Questo, comunque, speriamo che al Giubileo vada tutto bene. Alfredo da Vicenza, come la pensa Alfredo? Da Vercelli. Ah, da Vercelli, mi hanno detto Vicenza, scusi, prego, dica. Sì, Vici e Vercelli, va bene, stesso. Niente, io purtroppo la penso in maniera molto più triste, più drammatica, perché secondo me, la mia opinione, e tutti questi morti qua che sono stati in Francia, così come ci sono stati quelli di Charlie Hebdo, così come ci sono tutti gli altri attentati che avverranno purtroppo in questi giorni o in questi mesi, sono totalmente inutili, perché fino a quando l'opinione pubblica, l'opinione nostra occidentale sarà che l'Islam non c'entra niente, che non è una guerra, che noi col dialogo... Lei dice è una guerra religiosa. No, assolutamente non è una guerra religiosa, ma che l'Islam c'entra, che l'Islam è fondamentale. Noi abbiamo... l'interpretazione... Ecco, allora, voi avete appena parlato del laico religioso, noi abbiamo combattuto 100 anni per liberare la religione dallo Stato laico, giusto? Allora, perché deve valere per i cristiani, deve valere per l'Occidente e non deve valere per l'Islam? Noi abbiamo smesso di combattere per i nostri valori. Combattere per i nostri valori. Dunque, se il problema diventa che mi chiama con una croce sul petto ad arruolarmi perché c'è l'Islam, io mi proclamo obiettore di coscienza, cioè diserto, non so cosa dirvi. Se questa è la maniera di rispondere, personalmente, io ho capito come la pensa lei, però la mia opinione è: dove c'è il centro di reclutamento, qui io vado da un'altra parte, cioè non ci posso fare niente. Non ci credo che la risposta è metterci una croce, andare con le bandiere e fare le crociate. Non ci credo. Io penso che bisogna distinguere i livelli di sicurezza, di intelligence, di identificazione per chi è terrorista. Bisogna distinguere chi predica il califfato perché vuole creare uno stato nazionale, esatto, rispetto però all'Islam, esatto, in quanto tale. No, lei parla di Islam. Lo Stato, ma siccome la nostra opinione è che tutti bisogna usare le parole capisce? Con precisione in queste ore, se io l'ho fatta parlare, la rispetto, sento di dire noi cristiani non combattiamo più per i nostri valori rispetto all'Islam, io dico un momento, non è l'Islam uno, è un'altra cosa che io sono per affrontare con tutta la chiarezza e la durezza del caso, però io combattere per i miei valori contro l'Islam, no grazie, questa non è la mia guerra e credo che non sia proprio credo che sia quello che vogliono loro. Se posso dirle una cosa, credo che sia esattamente l'intento di chi ha riempito la testa di quelli che ieri si sono fatti saltare per aria. Quelli loro vogliono questo, è liberamento del loro schema. Può essere che mi sbaglio, ma la mia opinione è questa. Allora, adesso abbiamo un altro minuto, poi torniamo con le reazioni, sapete da dove? Da Pechino, su questo problema. E quindi la domanda diventa, ma loro con gli estremismi nazionalisti islamici anti-Pechino, come se la cavano e come vedono quello che sta avvenendo qua rispetto a Daesh e ISIS? Tra un minuto. Della Belva. Buongiorno, eccoci tornati in diretta. Questa puntata, come ovvio, straordinaria speciale di Conti della Belva e come praticamente l'informazione oggi è obbligata a fare, dedicata a tentare di informarvi sugli sviluppi, fatti nuovi, le reazioni, le prime interpretazioni e considerazioni degli effetti di questa tragica ondata concentrata di attacchi terroristici ieri sera a Parigi con 128 vittime. E siamo molto felici di aver ai nostri telefoni una persona che abbiamo visto che stava twittando e lanciando le fotografie dal 17° arrondissement di Parigi ed è una persona, cioè, qua noi teniamo molto perché è oggi il direttore della scuola di affari internazionali a Parigi, quindi insegna, però è una persona di un certo rilievo, di un certo impatto per l'Italia e quindi è con noi l'abbiamo chiamato e ha risposto al telefono e ha accettato di darci la sua testimonianza. Enrico Letta, grazie Enrico di essere collegato con noi da Parigi. Grazie a voi della telefonata. Allora, come hai vissuto le ore di ieri sera? Cosa ti sembra oggi delle prime reazioni di Hollande e l'impatto dal tuo punto di vista sul coordinamento europeo contro il terrorismo? Ma anche, ricordiamocelo, ci sono azioni armate in corso e la reazione di Hollande parla di guerra esplicitamente. Voglio sapere, a te queste reazioni che impressione fanno? Ma è stato ovviamente, sono state ore terribili, sono ancora ore terribili. Ieri la non comprensione all'inizio dei collegamenti tra gli eventi che accadevano, soprattutto l'attenzione attorno alla vicenda dello stadio, che era il primo fatto che attirava l'attenzione di tutti e che anche dal punto di vista della sicurezza credo sia stata la cosa più complessa da gestire. E poi tutti gli eventi concatenati con quella terribile vicenda finale. Speriamo che si tratti di finale, nel senso che la certezza assoluta che è finita, onestamente non ce l'ha nessuno l'ha data, nel senso che quando parliamo di terroristi come quelli di cui ieri si è avuta esperienza, cioè kamikaze alla fine, sì. Parliamo di terroristi rispetto ai quali non si può nemmeno sapere fino all'ultimo se effettivamente sono tutti morti oppure no, se c'è altro pericolo in corso oppure no. Quello che ho visto stamattina girando qui, insomma, nel quartiere attorno all'Arco di Trionfo, quindi non accanto ai luoghi sei colpito, ma nemmeno insomma lontanissimo, che la vita qui cerca di riprendere, cerca di ricominciare. Enrico, però dobbiamo chiederti un commento nel tuo ruolo di dean della scuola, e te lo chiediamo su due fronti. Uno è la dichiarazione di Hollande, che richiama dal mio punto di vista l'articolo 5 del trattato della NATO, cioè il casus federis. Dovremmo sentirci in guerra anche noi per vincolo di patto? Prima domanda, anche noi vuol dire Italia. E la seconda è invece il commento su Schengen e sugli effetti nella circolazione delle merci e delle persone in Europa. Ma è evidente che se Hollande ha detto quello che ha detto, ha delle evidenze che portano a ritenere, però bisogna capire quali sono, che portano a ritenere che si tratta di un attacco che è stato orchestrato dall'esterno, quindi con complicità esterne. È evidente che è un attacco molto coordinato e che ha sortito i suoi effetti anche forse più di quanto potesse avvenire, quindi è evidente che è stato organizzato molto bene. Quindi se queste evidenze ci sono, allora vuol dire che la regia esterna è una regia esterna che è credibile. D'altronde la Francia ha due caratteristiche: è sicuramente il paese insieme agli Stati Uniti, sono i due paesi sul fronte dell'attacco a Daesh, cioè dell'attacco a quello che chiamano lo Stato Islamico, e che secondo me non dovremmo chiamare Stato Islamico perché è un termine che non va bene, ma insomma a Daesh, e la Francia è in prima linea, lo è stata fin dall'inizio, lo è sempre stata, quindi è chiaramente tutto ciò che succede lì, è successo lì, tra la Siria e l'Iraq, vede una reazione contro la Francia come nemico numero uno. Il secondo è la Francia, è un paese che, lo si è già visto con la vicenda di Charlie Hebdo e con altre storie, è un paese di immigrazione antica ed è un paese nel quale questa immigrazione in gran parte si è integrata, ma c'è una parte che sicuramente non si è integrata, e questa parte non integrata nei decenni è diventata oggi un serbatoio in alcune parti di fanatismo e che trova proseliti, perché appunto da quello che si capisce, ma parliamo di cose che ancora sono tutte con i sei, ma da quello che si capisce si tratta probabilmente di cittadini francesi o comunque di persone che hanno vissuto lungamente in Francia agli attentatori, che quindi questa è la seconda caratteristica della Francia, un paese appunto con un problema di integrazione che ha dato vita e dà vita a fenomeni di fanatismo come quelli anche che abbiamo vissuto nel passato e che sembrano, continuo a usare molto ipotetici, parole ipotetiche, però sembrano essere anche in questo caso il tema. Ecco perché Parigi, ecco perché la Francia. Aggiungo anche, non so se è una ipotesi credibile oppure no, la Francia deve ospitare e la città di Parigi deve ospitare fra 2 settimane probabilmente il più grande evento globale dell'anno, cioè il vertice, la COP 21, come si chiama, il vertice globale sul clima, che deve cominciare il 29-30 novembre a Parigi, nel quale sono attesi un centinaio tra capi di Stato e di governo, che durerà 9 giorni, che dovrà avere un impatto positivo, speriamo, molto forte per limitare le emissioni e le emissioni di anidride carbonica nel mondo, e trovare un accordo che recuperi i disaccordi fatti precedentemente, Copenaghen, eccetera. Quello sarà un evento che a questo punto tenta di capire se verrà mantenuto oppure no. Quindi le conseguenze in sede NATO e in sede europea invece quali potrebbero essere? Ma credo che in sede europea, io spero che ci sia una resipiscenza su tanti punti in sede europea, cioè non si può affrontare il terrorismo continuando ad affrontarlo solamente con strumenti nazionali. Troppo poche sono state in questi anni e troppo pochi i passi avanti della integrazione tra i servizi di sicurezza e i servizi di intelligence a livello europeo, e io credo che questo sia un tema da porre, che va posto. Poi ripeto, magari è un tema che esula dai fatti tecnici, dalle tecnicalità di quello che è successo ieri sera, che magari sarebbe potuto succedere lo stesso. Ma no, però in assenza di questa integrazione da parte di intelligence, finché restano nazionali è ovvio che ci sono dei ritardi, delle ipocrisie, dei sospetti reciproci che comunque rendono meno efficace complessivamente la strategia di prevenzione ancora prima che di reazione. Questo è un sì, fatto. Anche perché di fronte a questi fenomeni conta più la prevenzione che la reazione, che di fronte ai kamikaze, credo, insomma, non sono un esperto di però mi sembra ragionevole. È la prevenzione quella che conta di più. Allora, grazie a Enrico Letta e grazie anche per dimostrare, questa è un'opinione mia personale, che c'è uno stile personale nel sospendere con la politica, nel dire io faccio altro nel frattempo e continuo a impegnarmi. Devo dire che io trovo questo una lezione che lui non sta dando, perché lui va per la fatto suo, però come osservatore mi piace sottolineare che per molti politici italiani io la considero una composta reazione di come si alternano cicli nella vita. È solo un modo diverso di continuare a fare politica, riconosciamo Enrico, però questo è un modo civile, esatto, civile, ha continuato in civile, un altro modo civile, con questo. Reazioni ispirate a un understatement, perdonate che però. Ho capito, ma gli uomini sono lo stile e in governo, nel governo e nella politica dei paesi lo stile ha un certo peso. Perché, come sempre, misurare le parole, che è il nostro slogan di oggi, è una roba che poi produce effetti politici. Se non le misuri, crei altri effetti politici. Grazie Enrico Letta e noi torniamo tra un minuto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Della Belva. Ed eccoci tornati in diretta ai compagni Conti della Belva. Nel frattempo ci ha lasciato Mario Seminario, che noi ringraziamo comunque e a nome del quale vi salutiamo, cari ascoltatori. Sono per questi ultimi minuti insieme qua in studio Carlo Alberto Canavamafè, Renato Cifarelli, Laura Bettini della redazione del GR, che continua a rappresentare le nostre antenne verso quello che sta avvenendo fuori. Nel frattempo ci ha raggiunto il direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Batacchi. Eravamo con Enrico Letta proprio a parlare delle ipotesi che il linguaggio usato dal presidente Hollande, che ha parlato di un atto di guerra, aggiungendo saremo spietati, potrebbe avere, perché come ricordava Carlo Alberto Canale Maffè, noi siamo membri di un'alleanza internazionale politico-militare in cui c'è un articolo che prevede, quando si usano, stanno queste valutazioni politiche, un vincolo, per così dire, di risposta comune. Grazie a Pietro Batacchi innanzitutto di essere con noi. Come interpreti le parole di Hollande, cosa pensi che possa avvenire alla luce della situazione sul campo e dei mezzi impegnati in Siria e in Iraq, due ambiti che sembrano congiunti, in realtà sono molto distinti per strategia e tipologia delle missioni politiche e militari dei diversi paesi che sono presenti in campo. Che sviluppi ti aspetti dagli attentati tragici di Parigi di ieri sera? Innanzitutto buongiorno a tutti, ciao Oscar. Mi aspetto che si faccia quello che si poteva, secondo me si sarebbe potuto fare anche nei mesi scorsi, ovvero iniziare a riprendere il controllo di alcune aree della cintura metropolitana di Parigi. Il fatto che il presidente Hollande e le autorità francesi abbiano invocato e abbiano applicato lo stato di emergenza significa che c'è l'esigenza, viene avvertita dopo gli attacchi di stanotte, l'esigenza di portare un più incisivo controllo. Quindi tu ci stai dicendo questa proclamazione senza precedenti dal 61 significa che azioni penetranti sono in corso, per cui c'era bisogno di una misura che sospendesse alcuni diritti, alcune facoltà, perché in queste ore bisogna fare pulizia da alcune parti, ho capito bene? Mi sembra che le parole del Presidente Hollande siano state chiare quando ha detto che i cittadini dovranno aspettarsi anche misure più incisive, perquisizioni e così via. Mi pare che appunto più chiaro di così non potesse essere il Presidente della Repubblica Francese. Qui bisogna partire da un presupposto, non siamo più in presenza di gli attacchi dei lupi solitari, dei rientrati, degli scappati che ritornano in Europa, ma siamo in presenza di una struttura organizzativa molto ben radicata che a mio avviso è ben localizzata in alcune realtà dell'area metropolitana parigina, che sono da anni, sottolineo da anni, fuori controllo, dove non lo Stato francese non esercita più alcun controllo. Ed è da qui che partono gli attacchi. Dal momento che sulla scena compaiono attacchi del genere, un coordinamento di questo livello, una pianificazione di questo livello, dal momento che appaiono gli esplosivi, cioè le cinture esplosive, significa che tu hai la disponibilità di aree sicure, rifugi, appartamenti, certo. E quindi una struttura. E a questo proposito, sentiamo Laura Bettini qui in studio che attirava la nostra attenzione sulla una valutazione che viene dagli ambiti di intelligence e sicurezza israeliani, dal sito Debka, che sicuramente il nostro ospite conosce. Questi attentati sparsi per la città erano per confondere le forze di sicurezza, mentre l'obiettivo principale era François Hollande, che come sappiamo era allo stadio. È un'ipotesi plausibile. Che dici, Pietro? Guardate, io non ho idea se l'obiettivo fosse effettivamente Hollande. Ora, io onestamente le informazioni, le analisi che provengono dal sito Debka contengono molto spesso anche molta disinformazione, per cui io le prenderei con la dovuta cautela. A prescindere dall'obiettivo, resta la qualità, il salto qualitativo che il terrorismo ha compiuto con questo tipo. Ha manifestato, quindi tu dici, perché noi siamo partiti dall'ipotesi buttata lì, che ci ha lasciato incredulo, dici, ma un solo comando che gira e che fa tutti gli attentati della serata? No, qui incredibile. Tu ci stai dicendo no, una regia raffinata con basi a Parigi, un fenomeno di ripresa di controllo perché è sfuggito da anni, e quindi prima ancora di pensare alle reazioni internazionali sui teatri contro Daesh, probabilmente a Parigi e in Francia c'è un problema che è relativo ai confini domestici, un problema di sicurezza interna. Assolutamente, ribadisco, parlare di un solo comando che riesce a fare tutto quello che ha fatto, che è accaduto stanotte a Parigi, è onestamente fuori dal mondo. Qui siamo in presenza di almeno, sottolineo almeno, tre gruppi di fuoco, probabilmente qualcuno è ancora in fuga e le forze di sicurezza francesi gli stanno dando la caccia. Per cui il primo problema oggi che la Francia deve risolvere è un problema che la Francia ha con se stessa, ovvero la presenza di una comunità islamica molto numerosa, di 6 milioni di persone, all'interno della quale si nasconde un mostro che non è nato nell'ultimo anno, sì, appunto, non è nato con ISIS, ma è nato negli ultimi anni. È nato negli ultimi anni, che ha avuto sviluppi ed evoluzioni interne, articolate a seconda di quello che avveniva nella complessa geografia dei collegamenti dei gruppi dell'islamismo terroristico. Quindi io apprezzo che Piero Badacchi ci riporti a un esame nei confini francesi, prima che al rombo degli aerei in Siria e in Iraq. Naturalmente, grazie a tutti voi che siete stati in ascolto, mi scuso con la telefonata che abbiamo mandato in onda. Grazie a Laura che è qui con noi, che ancora avrà ore e ore per informarmi, e grazie ai colleghi del GR, e grazie a Carlo Alberto, a Renato Cifarelli e a Mario Seminerio. La puntata di oggi per me è un obbligo, spero che voi tutti capiate, cercate di informarvi prima di scattare. Vedo dei titoli e delle opinioni di politici, ci sono politici che stanno dicendo bastardi qua, bastardi là, in queste ore politici che reagiscono così, datemi retta, grattatevi la testa, giratevi dall'altra parte. Scusate la mia opinione finale, buon relativamente al possibile fine settimana, continuate su Radio 24. Fratelli d'Italia, l'Italia, le messe.